In studio con noi ci sono Cipo e Vince Vitton. Benvenuti ragazzi. Ehi, bella Cipo. Ciao. Come state? Bene, bene. Oh. Sempre freschi, sempre al top, come la traccia che hanno appena sentito. È programmatica quella traccia lì. Proprio il tuo manifesto. Posso usarlo come mantra, diciamo. Sempre sul pezzo, sempre fresco, sempre al top. Ho tutto sempre fresco, anche perché oggi è decisamente fresco. Oggi sta arrivando l'inverno, domani dicono neve. Come domani dicono neve? Domani il meteo, non so se sbaglia o dice la verità, però ma così mi informavo. Beh, questa è una notizia che non sapevamo. Notizia bomba, Cipo. Cioè, notizia. Io da buon pendolare devo sempre informarmi su quali saranno le condizioni atmosferiche nella speranza di poter non andare a lavoro. No, non è vero, saluto tutti i miei colleghi che mi stanno ascoltando sicuramente da lavoro, sono uscito un po' prima oggi per essere in vostra compagnia. Ah, quindi abbiamo sottratto ai colleghi al lavoro. Sì, fortunatamente abbiamo sì, sottratto dei permessi retribuiti alla tua busta paga. Chiediamo scusa ai tuoi colleghi e al tuo posto di lavoro e al tuo capo. Comunque io sono sempre contentissimo quando vedo Cipo. Perché Cipo, lo posso dire senza paura che gli altri si offendano, è il mio trap boy preferito. Ehi, vedete, cioè, anche oggi sono anche tutto vestito elegante, anche se non mi vedete. Immaginatemi bellissimo, come al solito, sempre fresco, sempre al top. Ti sfidiamo a rimanere fresco in questa mezz'ora, perché qui nello qui fa veramente di radio sì, è caldissimo qui dentro. Abbiamo un clima un po' tropicale. Volevo capire quindi... se ero io entrando che ho fatto alzare la temperatura, come anche, diceva Max Pazzani dei tempi. Questa cosa è probabile, ma ti assicuro che già di base qui dentro c'è una temperatura che è bella alta, è bella tropicale. It's getting hot in here, dicevano. Senti Cipo, togliamoci subito la questione, no, per cui ti abbiamo invitato. È uscito Tuo Fa l'Americano, volume 3. Ecco, sì, siamo al terzo volume, io insieme al mio bros Vince Vitton, che è qui a fianco a me, ma... Che è il tuo producer. Sì, è il mio producer, dallo stampo prettamente americano. Abbiamo voluto cercare anche noi simpaticamente di fare un approccio trap a modo nostro a quello che è tutto questo meccanismo americano, nonché europeo da qualche anno e italiano da qualche tempo, appunto, di proporsi con una musica trap e di in qualche modo scimmiottare gli stilemi e tutti gli standard americani a nostro modo, dicendo lo fanno tutti e lo facciamo anche noi e vi facciamo precisissimo vedere e chiarissimo come siamo. E sempre l'approccio è sempre quello, divertente, simpatico, ma comunque con situazioni di vita reali che abbiamo vissuto io e Vince e che ci rappresentano e che rappresentano comunque un'attitude trap alla materia. Adesso che abbiamo parlato, hai già detto tutto, basta, andiamo. Sì, hai detto tutto, infatti sì, questo me l'ero preparato a casa. Ok. Oltretutto noi di solito con gli ospiti parliamo di tutto tranne che dei dischi, dei libri che hanno fatto, quindi adesso abbiamo inserito l'argomento, potremmo parlare di tutt'altro. Ma invece restando sul disco, restando sulla tua musica, ci sono un sacco di riferimenti ai Pokémon. Sì, che bello. Quest'anno proprio più in tema di così che esce poi Detective Pikachu e... Sì, c'è un film sui Pokémon in uscita. Ne parliamo due minuti. Possiamo parlarne. No, l'avete visto, volete, tutti il trailer? Il trailer sì. Che brutto è. Sì. È strano. Vince effettivamente sta facendo di no con la testa. Non me lo sarei aspettato in queste modalità il nostro Pikachu 2.0. Ma no. A parte che come Gardini, come abbiamo detto anche io e te in settimana, sembra Ted. Effettivamente l'animazione, stile d'animazione e anche il fatto che riesca a parlare con l'unico umano che lo sente rispetto agli altri e che comunque la sua attitude sia alla Ted effettivamente. Sì, esatto. Non è tranquillo e dice pica pica, effettivamente vede la tipa e fa i commenti. Hai capito? Sì, fa un po'. Non me lo sarei mai immaginato così. Fa un po' il trap boy Pikachu. Però bramerei invece anche, rimanendo in tema, di avere lo Switch per poter provare l'ultima uscita Pokémon. Let's go Pikachu, let's go Eevee. Ne ho sentito parlare molto male. Sì. No, io solamente avere una nuova piattaforma dove giocare, perché sono ancora legato al Game Boy e agli emulatori pirata sul PC e quindi io gioco con quelli di solito. Ok, due domande veloci prima di mettere un pezzo e poi magari cambiare discorso. Giochi a Showdown? No. Pokémon Showdown? No. Bellino, ti passo il link. Sì. Pokémon Go? Pokémon Go, qua abbiamo un campione che però non ne vuole parlare. C'ho un team di esperti che gioca, io non gioco in realtà perché il mio cellulare non supporta. Ok. al top ste periferiche. Vince, dimmi solo il livello. Non lo 30, può dire, non vorrebbe dire 30, ok. Voleva dire 40, ma non può dire. Perché se no, dopo gli altri, le altre palestre si vogliono cercarlo anche lì. E dopo gli mandano i messaggi anche su Pokémon. Hai ragione. Hai ragione. Perché, ragazzi, giocare a Pokémon Go è davvero super epico. Non ci può. E invece l'attitudine un po' trash. Sì, no, quella c'è ancora, perché comunque la mia simpatia e tutto quello che era stato, diciamo, il discorso del mio personaggio un po' sempre irriverente, usando certe modalità per esprimersi, anche come dicevamo prima per Pikachu, un po' sboccate. Sì. O poter, anzi, simpatica cosa, proprio ieri sera mi sono trovato casualmente a fare un live a Granada, che è un'associazione che c'è a Bologna. E niente, al termine del live ci siamo trovati a doverci confrontare, perché effettivamente i temi delle nostre canzoni molto spesso possono sembrare un pochino misogine. Sì. Noi oggi abbiamo aperto la puntata parlando con i blogger Sex and Rose della questione del consenso, no? Dell'Irlanda, di quello che è successo in Irlanda. Ne abbiamo poi parlato anche con Martina May successivamente. No, fortunatamente ieri siamo riusciti a confrontarci umanamente, mm-hmm. e dall'altra parte hanno capito che comunque la nostra attitudine e impronta è soprattutto, diciamo, demenziale, simpatica, tendente all'esagerazione massima di quello che diciamo, ma per cercare di far scaturire anche qualcosa dall'altra parte. Quindi per noi è stato molto positivo poi confrontarsi, e questo ce lo permette un attimo la nostra demenzialità tale che molto spesso non viene capita. Sì, vi permette di tirare in ballo concetti che con un altro frame non sarebbero accettati. Che poi, vabbè, dai, è quello che si dice sempre del rap, che è misogino, che è violento, che secondo me ormai non ci sta neanche più dirlo, non perché magari non ci siano contenuti effettivamente misogini, ma perché fa parte di quel frame lì. Cioè è in quel frame lì che è inserita questa cosa, di una determinata visione che appunto comprende anche altre cose, tra cui l'utilizzo magari di espressioni o misogene o queste attitudini. Io poi Cipo lo conosco da un po' di tempo, cioè è una persona, sei un dolcione tu, Cipo. Sì, io sono super sweet in realtà. Assolutamente sì. E infatti avevo pensato questa cosa oggi, ovviamente nei tuoi testi ci sono questi riferimenti alle donne, c'è quella bellissima canzone, forse non è proprio tua, però sulle sbarbine. Sì, è del Proevo sempre. Esattamente. Comunque la nostra attitudine è sempre stata quella, no? Quella lì era un tributo agli Schiantos quasi. Ok. E quindi c'è la ricerca, sì, ci piacciono le sbarbine, buon Sasha, che lo salutiamo, che è sempre... Però poi tu sei fidanzatissimo. Io fidanzatissimo, innamorato, fedele, e chi più ne ha più ne metta. E tant'è che c'è anche in nell'ultimo tuo Falamericano, volume 3. Volume 3, c'è una traccia, l'ultima, totalmente scritta per la mia amorosa, che è affettuosamente definita Morix, nome storpiato come dire amore, così l'ho scritta per lei e gliel'ho dedicata su un beat di Vince. Mi sta salendo il diabete. Spero che mi stia ascoltando, così faccio bella figura. Cosa ti ha detto lei quando... Sai che è stata che totalmente una sorpresa, canzone non gliel'ho per detto. Gliel'ho detto e ho fatto in modo che lei non lo sapesse. Più volte ho provato a farle sentire il disco in anteprima. Ok. Ma era sempre troppo impegnata. Okay. Ho sempre... Sì, vabbè, ma tanto appena esce lo sento, dai, non ti preoccupare, tanto no. Sì, ma comunque io ti supporto anche senza sentirlo, quindi, cioè, ci sono per te. Questo lo sapevo, no? E lo volevo fare una sorpresa. Ho aspettato l'uscita del disco. Ciecamente, proprio. Ho aspettato l'uscita del disco, tant'è che nel momento che lo stavo caricando online con le preview, stavo tagliando i video per fare i vari spot da mettere online, ho tagliato pure quello della sua canzone, lei era accanto a me, stava dormendo fortunatamente, e non se n'è accorta. E lo stesso giorno che è uscito l'album, alle 2 ho iniziato a chiamarla e dirgli: oh, guarda Morix, sentilo che è bello quest'album, secondo me è il più riuscito, voglio sapere cosa ne pensi. E lei in realtà anche lì mi ha risposto un po' sgarbata dicendo: sì dai, adesso non c'ho tempo, appena lo sai che appena c'ho tempo lo Quindi sento. Dopo quanto si è accorta che c'era la canzone la per lei? La sera dopo si è accorta che c'era una canzone dedicata a lei, riascoltandolo da sola a casa, si è messa a piangere, non so, è stata molto contenta comunque. Guardate, e poi fai tutto il traboy. Ma sì, difatti io sono che parla di droga, parla di donne. Voglio fare un po' l'americano così, ma vorrei anche proprio dirlo, no? Che sì, come me, che alla fine sono super sweetie, però cerco di fare l'attitudine. Dall'altra parte ce ne possono essere anche tanti di molto più famosi di me che fanno, ugualmente sì, si presentano come i più duri, i più gangster, più, quando poi in realtà di situazioni del genere non ne hanno mai vissute. Ma poi è quello che facciamo anche noi ascoltatori, cioè noi che ascoltiamo, sai, magari parte il pezzo un po' più cattivo, ti piace anche, sei lì a me piace moltissimo quando sono al supermercato, cioè quando sono al supermercato faccio la spesa e ho tutti questi sconosciuti intorno, il pezzo cattivo nell'orecchio mi piace tantissimo, poi arrivo alla cassa, c'è la vecchina dietro di me, io magari prego, le dico passi, signora prego passi pure, quindi alla fine sono un dolcione con la musica, certo, cattiva nelle orecchie, cioè nel mentre magari mentre riempi il carrello guardi tutti male, sì, carico della tua moglie un po' ti incarognisci, però poi l'essenza, siamo buoni dentro, tra noi ci si riconosce alla fine, l'essenza alla fine viene fuori, tipo. Che... senti, invece niente parla di niente, niente beef con Chip. Vuol dire che tutti buoni, non potete trovare da dire con me perché sono un bravo ragazzo. 89, tutta roba nostra, di nuovo, Fujiko Factory, su Radio Città Fujiko. Sei il più nostalgico. Sì, è vero. Sono volontariamente. Hai ragione, mi viene la nostalgia, tutta roba nostra. Ogni tanto con noi ci sono Cipo e Vince Vuitton. La scusa che abbiamo utilizzato è quella dell'uscita. Sì, di ma noi tubo passiamo volentieri anche la prossima settimana, anche se non esce niente di nuovo. Ma voi lo sapete che per potete venire quando sì, volete voi. Noi siamo solo contenti di avervi qui. Però appunto finora abbiamo parlato di te, non abbiamo parlato del sodalizio artistico con Vince Vuitton, che è qua. Grande, sì, guarda, il rapporto tra me e Vince nasce anni fa. Nel senso che noi ci siamo conosciuti 8-10 anni fa, probabilmente già. E in realtà a livello musicale non avevamo gusti affini, cioè comunque ci piaceva tutte e due la musica rap, però non è che né venissimo dalle stesse balotte né fossimo amici veramente uniti come magari lo siamo adesso. Cioè non uscivate insieme, no, sabato sera? Non uscivamo insieme, okay, sabato sera. Poi la mia amorosa è stata per anni la sua coinquilina. Ok. Quindi io mi sono trovato a fidanzarmi con lei ed andare a occupare un posto letto che in realtà non c'era, comunque in quella casa dove lui tuttora vive. Temevo stessi per dire, la mia amorosa è stata per anni la sua amorosa. No, vabbè. Fortunatamente, no, diciamo, questo l'abbiamo evitato. Ok. E niente, lì, quindi, 5 anni fa, la nostra amicizia, il rapporto si è un po' ricongiunto, più di prima, quindi abbiamo iniziato a frequentarci, effettivamente. E da lì gli ho fatto sentire un po' questo genere nuovo che era la trap di 4-5 anni fa, le prime robe che uscivano, perché lui era stra interessato al rap americano e invece alla trap non l'aveva mai sentita. E io gli ho proposto, io invece sono sempre stato molto interessato a invece al rap italiano, la musica più italiana che americana. Quindi ancora 4-5 anni fa la trap era una cosa nuovissima in Italia. Sì, sì, devo dire che adesso non vorrei proprio darmi dei meriti, però so che ce li abbiamo, che qua a Bologna, a me dispiace che tra i primi che aver portato meriti, sta roba qua è stata la Pro Evolution Joint, cioè quando noi facevamo le serate Stay High, per dire, che erano serate che abbiamo portato avanti per un paio di anni, era una musica innovativa che non andava così tanto e che non era così neanche sviluppato nel panorama italiano come serate, come possibilità, okay, di andare a suonare da qualche parte. E niente, gli ho fatto sentire a lui un po' di beat, un po' di cose che mi piacevano. Lui ha una passione anche che veniva già da prima per la musica elettronica. E sentendo i beat che gli proponevo, mi ha detto: ma Emiliano, ma questi sono una cazzata, te li so fare anch'io. Okay. E io ho detto: vabbè, dai, Vince, fammeli, che se tu mi fai beat, io faccio uscire un album. Adesso passa un'immagine di Vince. Sboronissimo, cioè, no, ma vero, è andata così, fare cioè, anche io così. E sta di fatto che invece è timidissimo Vince, infatti a me dispiace, non vuol parlare, non ha ancora detto niente, ha fatto qualche suono, i suoni però gli vengono bene. E umorista, ti dirò, quando lui mi ha detto sì, guarda, ho craccato Fruity Loops, adesso ti faccio un beat, io ho detto, cioè avevo la speranza di dire bene, fammi qualcosa che spero che spacchi, ma non ne avevo la certezza. Si può dire in radio che avete craccato Fruit Loops? Sì, beh, si può dire, credo. Si poteva... no, non si potrebbe dire, però no, solo licenze ufficiali, scusate, solo plugin tutti acquistati, Vince 808, tutto strumentazione professionale. Sentite, per toglierci dall'imbarazzo sentiamo l'ultimo pezzo di oggi, riusciamo a passare un'altra traccia e Olio Can Eat, dimostra quanto mi piace mangiare in quei posti asiatici dove puoi mangiare tutto quello che vuoi. Io, dimmi. Che riguarda anche te, vediamo se riusciamo a tirar dentro anche Vince. Voglio scrivere prima o poi una canzone con te. Bomba? Ma subito la facciamo. Featuring. Ci fa il beat Vince e io e te buttiamo giù il testo, andiamo a registrare. Però io canto malissimo, cioè devi cantare tu. Io. Ma adesso c'è il V-coding, facciamo autotune, spariamo auto-tune. Un po'. Ti... Guarda, siamo riusciti a far cantare della gente che, proprio che era negata. Era negata e tuttora credo che dei produttori riescano a far cantare dei bambocci molto meglio rispetto a quello che potevano ai tempi. Quindi grazie, possiamo fare una canzone insieme. Sì, ma volentierissimo. Sarebbe un ma io sogno, anche domani. Adesso non diciamolo forte che lui è talmente produttivo, Vince qua, che in 2 minuti ci fa un beat. A me interessa fare il testo, cioè cantare non mi interessa. Al te, mi perfetto. Piacerebbe stare sul testo. Io posso anche solo fare il performance e performare il tuo testo. Sì, sì, io sto dietro le quinte, cioè, sto lì, faccio lo scribacchino in pratica. Si può fare un nuovo progetto alla Liberato, che non si sa chi è, che fa cosa. No. Però l'abbiamo già detto ormai. Ma adesso non si sa che... ma sì, ma come adesso uscirete? Poi facciamo un cambio adesso. Vabbè, non lo dico. Non diciamo. Ho già un'altra idea che però non ok, diciamo. No, sono, diciamo tutto. Ci sputaniamo tutto. Comunque nel caso abbiamo anche la Gardini da utilizzare. Io già saprei dove mettere anche la Gardini. Scusa. Nel team Regas del Navile qua. Team ragazzi della vita. Proprio okay. Oggi diciamo che secondo me molti ascoltano il programma perché hanno piacere ad ascoltare proprio la voce della Gardini. Cioè stanno lì e immaginano la Gardini. Non che bella la Gardini. No, tutti credo, la totalità tutti. Credo. e sono, cioè, sfortunati perché non hanno l'occasione di vederla. Non vi dico andatela a stalkerizzare sui profili perché no, ma tanto è meglio c'è non farli. Però se diventano anche follower, cioè, ma guadagni una marea. Ma sì, se diventano follower di tutti non ma ci fa no, male. Fatemi diventare un influencer a sto punto. Io sono d'accordissimo. Per me l'hashtag nuovo potrebbe essere Gardini Docet e ci fa lei da influencer. Ci dice come ci dobbiamo vestire. Ragazzi, purtroppo siamo arrivati alla fine. Mi dispiace moltissimo. Ma io vi volevo chiedere un'ultima cosa. Vai. Che potete rispondere sì o no. Sì. Andrete al concerto di Young Signorino? Sì. Bene. Sì. Sì, sono stato anche a quello di Bello Figo e ho avuto modo di parlarci ed è un ragazzo a modo. Ne sono sicuro, il personaggio è una cosa, la persona poi è tutt'altra. Anche se parla così, okay. Cioè dei suoi vocali in cui mi parla di altre cose e la sua voce è quella, okay. Rega. In quello persona e personaggio effettivamente coincidono. Grazie Cipo, grazie a voi. Beton. Vi rimandiamo ovviamente... A Duo fa l'americano volume 3, ma anche volume 2, volume 1, tutti i volumi. Potete seguirci su Spotify o su YouTube, ci trovate su Instagram, le piattaforme le sapete, aggiungetevi sui social che siamo simpatici. Ho tutto con l'avatar di Asciughino dappertutto, così non vi sbagliate. Buona settimana, lunedì prossimo, grazie ragazzi. Ciao.